piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Jessica, ricevi quest'anello. Sintomo, è a simbolo. Scene da un matrimonio, scene che per il momento possiamo rivedere solo nei film. Abiti, fiori, banchetti, confetti, i matrimoni sono meglio, erano un bel affare. Da circa 40 miliardi di fatturato l'anno. Tra marzo e aprile ben 17.000 coppie hanno deciso di rimandare il momento del fatidico sì. Altri 50.000 si stima tra maggio e giugno faranno ugualmente, con una perdita di 26 miliardi di euro per la filiera, perché al tempo del coronavirus ci si sposa così, mascherina sì e no party, secondo DPCM. C'è poi chi addirittura sceglie nozze social, ma non in Italia. È un problema tra i tanti problemi che emerge naturalmente in questa fase in cui lentamente ognuno dice, afferma, rappresentando la propria categoria, il proprio punto di vista, il proprio interesse, anche il proprio modo di pensare, quello che ha determinato due mesi di vita totalmente diversa dalla prassi, negli equilibri individuali, negli equilibri sociali, ma anche nella già difficile situazione economica. In Italia, secondo i dati Istat del 2018, si celebrano 196.000 matrimoni. Non sto a pensare che sono tanti, pochi, non sto a entrare in merito, sono meno di quelli che si celebravano l'anno precedente, però oggi sembrano tantissimi. Perché sembrano tantissimi? Perché, come è risaputo, le norme di distanziamento e di sicurezza da Covid-19 prescrivono in maniera molto rigida alcune regole che sembrano antitetiche alla felice celebrazione di un matrimonio secondo la tradizione. Oggi chi si sposa secondo la tradizione comunque naturalmente lo fa proprio per dare un segnale sociale a quello che è la loro unione. La maggior parte dei matrimoni celebrati in chiesa, celebrati con il necessario rituale nuziale previsto dalla tradizione, richiedono tanti invitati, tante persone, baci, abbracci, promiscuità, viva lo sposo, viva la sposa, bacio, bacio, bacio, lancio del riso, cortei, battiti di mani in chiesa. Insomma, il matrimonio tradizionale è bello proprio perché sancisce l'inizio di una promiscuità benedetta dalle istituzioni, benedetta da Dio, ma allo stesso tempo è promiscuo in sé come cerimonia. Quindi i matrimoni si fanno in forma ridotta. Non è previsto più il lancio del riso, non si può stare più attaccati. Immagino che alla tavolata di nozze occorra osservare le stesse regole che si osservano al ristorante, quindi persone distanti a un metro, come faranno viva lo sposo, viva la sposa, parenti dello sposo, parente della sposa, lancio dei confetti, tutte queste cose qui, come avvengono, lo strippamento del matrimonio, si bisogna stare distanziati. Soprattutto i matrimoni, soprattutto nel nostro meridione, venivano considerati come momento di gratificazione sociale proprio in ragione dei tanti invitati. È notorio, le famiglie, molte famiglie fanno debiti per fare un matrimonio degno ai figli, perché questo significa una dimostrazione di prestigio familiare. Insomma, poi è buon auguro, poi la gente vive per sposarsi, per fare il matrimonio, per fare il vestito. La TV è piena nei canali digitali di programmi dedicati appunto alle suocere, alle nuore che vanno insieme a scegliere il vestito, alle organizzazioni sontuose dei matrimoni. Insomma, il matrimonio è qualcosa che in questo momento non esiste più nella forma tradizionale. Voi direte, chi se ne importa, la gente si sposerà per amore, si sposerà a poche persone. Beh, fino a un certo punto, perché pensate che l'indotto della grande business matrimoniale erano 40 miliardi all'anno, sempre nel 2018. L'ANSA ha pubblicato un dossier proprio qualche settimana fa. Oltre a questo bisogna aggiungere tutta un'altra serie di circostanze accessorie che però vengono in qualche maniera favorite dall'industria matrimoniale. Immaginate i mobilifici, il 90% dei mobili vengono comprati da giovani coppie che si sposano, che arredano casa ex novo. Anche qui parliamo di un 4 miliardi di indotto sul territorio nazionale. Altri 5 miliardi sono i fiorai che fanno all'anno, ma quanto i fiorai in queste cerimonie generali hanno appunto possibilità di incrementare i loro affari? Pensate alle bomboniere. Leggo sempre su questo dossier dell'ANSA che l'industria del bomboniere impegnava 700 aziende in Italia. Sono 30.000 persone che in questo momento facciano le bomboniere e non sanno cosa fare, perché se non si fanno i matrimoni non si fanno le bomboniere. Poi mettiamoci l'edilizia, le ristrutturazioni, mettiamoci i viaggi che non si possono fare. Insomma, il fatto che la gente non si sposi, mentre che per molti potrebbe essere il segnale di una mutazione della società verso modelli più elastici e modelli, diciamo, in qualche maniera più adeguati all'evolversi della società, però in questo momento è un grosso danno. Quindi oggi vorremmo parlare della crisi del matrimonio con persone che sono state nella loro attività, nella loro creatività, nel loro quotidiano professionale, colpite duramente dalla crisi del matrimonio. Si è molto parlato dei funerali, perché è un elemento doloroso la mancanza di elaborazione attraverso una cerimonia di una scomparsa, ma meno si è parlato dei matrimoni e ne parliamo oggi. 800 24 00 24, quanti hanno cambiato i loro progetti matrimoniali a seguito del Covid, quanti lavoravano nella grande industria del matrimonio e oggi si trovano senza lavoro. Eravamo lì proprio per diventare marito e moglie, invece lui è lontano, non ci vediamo da tanto tempo. Avrebbero dovuto essere nella chiesa di Santa Maria in Gerusalemme a San Pietro in Guarano, nel Cosentino, per coronare il loro sogno d'amore, ma per Manuela e Massimo le porte della cattedrale sono rimaste chiuse. Il coronavirus è entrato a gamba tesa nella loro vita. Lei in cassa integrazione, lui operatore sociosanitario nella casa di riposo Santa Maria, nel cuore di una delle zone rosse del contagio. La doccia fredda nel pieno dei preparativi, con l'abito pronto da ritirare, le partecipazioni spedite a parenti e amici. Ci siamo ritrovati segregati in casa a dover rinunciare alle cose essenziali per tutti, penso, l'amore della famiglia, gli amici, il poter uscire, andare in pizzeria, insomma condividere le nostre vite con gli altri. Zero zero ventiquattro, questa è una coppia di sposi calabresi che è presa da News 24, canale News 24, che in qualche maniera ha visto naufragare il loro sogno di celebrazione, anche con un evento socialmente rilevante del loro sogno d'amore. Però entriamo nello specifico. Io vorrei sentire questa mattina tutte le persone che hanno dall'inizio di questi giorni, diciamo dalla riapertura generale e abbastanza notevole nel nostro paese, comunque visto condizionato o bloccato la loro possibilità comunque di lavorare, quelli che lavoravano nell'industria del matrimonio. Abbiamo Peppe da Prato, buongiorno Peppe. Peppe da Prato. Pronto? Beh, sì. Io non mi chiamo, se sono io non mi chiamo Peppe, ma comunque. Che sono, così mi hanno scritto Peppe, come si chiama? Io mi chiamo Alberto, Sette Vendemmie. Però da Prato? Sì, da Prato, sì. Hanno capito male, hanno capito. Va comunque, bene, va bene, Alberto, chiedo sì. Scusa. Prego, prego. Peppe, è un bel nome. Ho 69 anni, era la prima volta che provavo a sposarmi, il 20 giugno. Cioè, è una scelta meditata, aver riflettuto molto, su questo. Molto, molto meditata, sì. Vabbè, però giustamente ci ha pensato, finalmente aveva deciso il 20 giugno, e quindi? E quindi niente, avremmo dovuto fare con le mascherine, è stata una cosa molto squallida. Ah, sei sposato secondo le regole, con le mascherine? No, avremmo dovuto. E qual era, diciamo, la regola che avevano, diciamo, imposto? Sposa e sposa con la mascherina? Sì, mascherina, testimoni, figli adulti. Basta, due, insomma, pochissime persone. Anche il prete con il mascherinato? Beh, era un mio amico, sarebbe stato, era un matrimonio laico. Come si mette la mascherina? Quindi non potevate nemmeno, nessuno poteva vedere il labiale se dicevate sì. Era anche, diciamo, in qualche maniera messa in discussione il fatto. La sposa stava zitta, uno diceva sì, dal pubblico, valeva lo stesso. Comunque adesso ci sto scherzando, però mi rendo conto che per chi dà valore a queste cose è un problema grosso, è un problema di non facilissima soluzione. Quindi lei ha preferito rinunciare? Sì, l'abbiamo spostato a settembre, metà settembre, Però solo come cerimonia, poi abbiamo deciso di fare la festa, diciamo, riproponendo tutta la cerimonia, facendo una sorta di fiction, quindi con... rifarete una sceneggiata dopo, a posteriori. Sì, esatto. Ma la sposa era in bianco, aveva tutto il vestito, aveva comprato tutto? Beh, insomma, siamo abbastanza in là con gli anni, io 69, lei 50. Ah, che vuol dire? No, però, mica si può mettere insomma, un vestito da sposa, sì, io un vestito simpatico da sposa, sì. Solo che adesso l'aveva comprato estivo, a settembre speriamo che tenga la stagione. Beh, se no gli fa un altro vestito. Sì, certo, no. Vabbè, sono problemi, sono problemi. Dolores Tommasi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, Dolores Tommasi è una stilista, creatrice di abiti da sposa, ha anche un sito, dolorestommasisposa.it. Perché la chiamo? La chiamo innanzitutto perché è un'ascoltatrice affezionata, è una delle persone che più ci ha seguito anche in tutti i nostri eventi. Per fare un esempio, quando facemmo la memorabile notte delle Barbie, lei venne con un vestito... Tutto. Cioè certo, la mia memoria è indelebile. Venne con un vestito da Barbie che era un abito con la coda lunga, ho delle foto ancora di questo. Perché? Facile, perché lei i vestiti li pensa e li crea. La tua vita quanto era orientata su tutto l'indotto matrimoniale, Dolores? Beh, allora, io ho 30 anni che ho il mio atelier a Milano, quindi ho sempre fatto le mie collezioni di abiti da sposa e poi facevo abiti su misura per le spose. Praticamente le spose venivano, provavano l'abito e poi, cercando un po' di realizzare i loro sogni, facevo questo abito per il grande giorno, perché ogni sposa ha il suo desiderio, si vuole sentire principessa e sono andata avanti per questi 30 anni. Tu per 30 anni ci hai regalato parte del sogno, di una vita nell'abito dei sogni di ogni donna. Sì, tanto che mi chiamano la fata delle spose, perché facendo un lavoro artigianale riuscivo anche a fare quelle modifiche, quelle personalizzazioni dell'abito che non è che fanno tutti... diciamo i grandi centri, i grossi negozi di abiti da sposa, ecco. Quindi con questo tipo di servizio... partiamo un attimo, Dolores, sì. Farmi capire il problema stagionale. Questa è la stagione dei matrimoni, mi pare. La gente si sposa verso maggio, questo è il periodo in cui la gente sarebbe più sposata, no? Sì, diciamo che io sono stata colpita proprio all'inizio della parte della vendita, perché diciamo una parte questo, ma volevo fatta... capire questo, Lore, se la gente si sposa a maggio, diciamo le tue clienti quando cominciano a pensare e rivolgersi a te per cominciare a ragionare su un abito, che mese dell'anno? Allora le spose di aprile, perché il matrimonio inizierò d'aprile a ottobre, ok? Allora le spose di aprile, maggio, giugno scelgono l'abito tra ottobre e dicembre. Poi tra gennaio e marzo ci sono tutte le spose di luglio, agosto e settembre. Quindi quelle di ottobre ancora hai fatto in tempo, quindi, diciamo, a sentirle? No, io ho perso proprio tutto, nel senso che quelle che avevano confermato ancora a ottobre, che erano le spose di appunto le della primavera, sì, hanno dovuto spostare il matrimonio e l'hanno spostato l'anno prossimo. Quindi tu praticamente per un anno non lavorerai più? No, tra le altre cose io ho chiuso a marzo, i primi di marzo quando c'è stato il decreto, che ero subito dopo una fiera degli sposi, dove avevo un bel po' di appuntamenti di spose che sarebbero venute a scegliere l'abito, quindi mi sono giocata proprio tutto l'anno, ecco. E quindi, ma adesso diciamo, le persone nella tua condizione, sì. I matrimoni riprenderanno, il signor, questo è un matrimonio particolare, un matrimonio diciamo... riflettuto, allora, 69 anni, ma le giovani coppie che hanno già pensato a tutto, gli inviti, i parenti, i regali, il viaggio di nozze, aspettano il tempo, cioè, che non ci sia più questo problema, perché nessuno si vuole sposare con la mascherina, sono proprio in pochi che non ci tengono all'apparenza, diciamo così, perché tutte, allora, il matrimonio è un sogno. Per ogni, adesso io parlo più delle ragazze perché conosco bene la loro psicologia, no? Quindi non vogliono rinunciare al giorno perfetto, dove tutti i dettagli devono essere belli, dove la gente può apprezzare anche quello che è la festa di questa giornata. Anche perché siamo in un momento, grazie a Dio, che uno può cominciare comunque anche a vivere assieme, non è che ti vengono a prendere i carabinieri, certo, a casa. Quindi sì, cioè, intanto sì, cominciamo a vivere, ricominciamo a ricostruire le nostre vite, poi faremo, come fa questo signore, una bellissima festa appena possiamo. Questo, certo, però scombussola tutta la linea di produzione di questo grande evento. Nel mio caso, sì, nel mio caso io ho fatto la scelta di non riaprire il 18, e comunque continuerò a fare la stilista di abiti da sposa, ma in altre forme, perché comunque io sono in un negozio in affitto e le posso anche dire, per me a tenere un mese il negozio mi costa 1.800 euro. Cioè, per me e tu sai che comunque non venderai un abito da sposa da qui a forse l'autunno. Se non fossi sicura di quello, perché le altre crisi le ho superate bene, anche sono anche autofinanziata, perché comunque dico, la concorrenza posso anche essere forte e proporre cose nuove, posso avere tante idee creative. In questo momento non mi devo adeguare a quello che sarà la linea di tutti, perché tutti risparmieranno, quindi vorranno spendere di meno. Anche allora, fermiamoci solo un istante, Dolores, che sì, siccome dobbiamo dare la linea alla borsa, è importante in questo momento la gente cominci a ragionare con noi su come si può fare, in qualche maniera si può conciliare questa esigenza comunque di mantenere le misure di sicurezza e l'investimento che una persona fa sul proprio matrimonio. Chi ci crede, chi lo pensa, non è una mia condizione che vivo personalmente, però mi rendo conto per molto è importante. E il sogno ha lo stesso valore e lo stesso peso nell'equilibrio di un paese, di una persona, di una famiglia, di un nucleo sociale rispetto a quello che hanno le prassi. Quindi vediamo se esistono delle forme alternative. Ci fermiamo soltanto un istante, intanto abbiamo già molti ascoltatori in attesa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Zero zero ventiquattro, stiamo parlando della crisi dell'industria legata ai matrimoni, ne stiamo parlando con una nostra ascoltatrice che è anche stilista e creatrice di abiti da sposa, è Dolores Tommasi, il suo sito è dolorestommasispose.it. Dolores ha dovuto chiudere il suo atelier perché doveva pagare un affitto non potendo più lavorare, essendo diciamo bloccata l'industria matrimoniale, sta continuando a fare abiti e inventare abiti dal salotto di casa sua e noi siamo collegati con lei proprio dal salotto di casa sua. Intanto io ringrazio le persone che mi permettono di andare in onda, da Milano è Peter Bescapè e Anita Panizza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Prendiamo qualche telefonata e poi continuiamo a sentire la storia di Dolores, come una persona che da 30 anni fa la stilista e si dedica appunto alla realizzazione del sogno delle giovani spose. Oggi che le giovani spose hanno rimandato il loro sogno, lei non è che può rimandare la fetta di bollito che mette nella pentola, quindi dovrà inventarsi qualcos'altro, come lei, tutte le persone che ogni anno determinano un indotto, un fatturato di 40 miliardi, mi ricordo. Ricordo nel nostro paese, legato appunto alla grande fabbrica del matrimonio. Sentiamo Gloria. Gloria, buongiorno. No. Ciao a tutti. Ma tu cosa sei? Una sposa rimandata? Allora, io mi sarei dovuta sposare il 3 giugno 2020, quindi ormai fra pochissimo. Avevi già comprato l'abito? Già l'avevi acquistato l'abito? Avevo già acquistato l'abito da Dolores. Ah sì, sono la sua cliente, ma pensate. Esatto. E ma dove lo fa? Che ci fai adesso? Questo? Lo tieni da parte? Lo tieni in una... Lo terremo da parte l'abito e abbiamo dovuto rimandare al prossimo anno, quindi a giugno 2021. Tra l'altro la data che abbiamo scelto, il 3 giugno, era già occupata nella location, perché comunque molti matrimoni del 2020 vengono rimandati al 2021 e quindi scusami Gloria, tu mi fai capire che le persone si stanno organizzando, chi si doveva sposare ha già rimandato di un anno senza pensarci, esatto, due volte. Cioè. Sì, perché calcola che magari sia gli invitati per i matrimoni imminenti e sia comunque anche le spose, magari l'abito della sposa è restivo e quindi bisogna scegliere una stagione estiva, l'abito degli invitati o delle damigelle è quindi restivo, non è puoi dire mi sposo ottobre o dicembre, devi sposarti per forza l'estate, ormai hai fatto già la spesa, devi rivedere tutto. Tra l'altro in location abbiamo trovato la data occupata, quindi noi eravamo affezionati al nostro 3 giugno e in location, dato che molti stanno spostando, era già occupata, ci siamo ritrovati a scegliere così dal nulla un nuovo giorno e abbiamo scelto il 21 giorno che è il giorno del solstizio, quindi speriamo che sia un bel giorno, insomma. È il solstizio avvenuto, però sarebbe meglio farlo il giorno prima, così vi sposate proprio nell'attimo. Non c'era possibilità, perché anche lì era occupato il giorno. Però questo è un dato sicuramente interessante, capire che c'è comunque una tal volontà di rimanere nell'alveo della tradizione che alla fine non c'è Covid che tenga. Voi comunque la vostra cerimonia, il tuo bell'abito che ti sei già acquistata, tutti i sogni legati al matrimonio comunque ci sarà. Sentiamo Sonia da Prato. Sonia. Sì, buongiorno Nicoletti. Niente, io sono la moglie di un fotografo di Prato e noi siamo in grandissima difficoltà perché praticamente tutti gli eventi di qualsiasi tipo, a parte matrimoni, comunioni, cresime, tutto è stato rimandato o a ottobre o addirittura tutti i matrimoni al prossimo anno. E tuo marito, quindi, cioè, oltre ai matrimoni non c'era più battesimi, cresime, nulla, guardi, nozze d'oro, niente. Ieri gli ha telefonato una coppia che hanno un bambino piccolo, il 31 maggio dovevano fare un battesimo e purtroppo non credo che lo faranno perché tutti con la mascherina vanno o lo fanno senza fotografo o lo rimandano al prossimo anno, però il bambino poi sarà grande. Il bello del battesimo è che inzuppano il bambino dentro l'acqua, non si può inzuppare nell'acqua. Secondo me, perché il prete gli ha detto era possibile, ma secondo me non lo può fare assolutamente. No, cioè, può farlo con possibile. La mucchina, può fare una vaschetta di mucchina. Sì, non può essere. Però dicevo, appunto, la situazione è critica. Mio marito ha aperto il negozio e le uniche persone che sono entrate sono quelle che dovevano riscuotere. E basta. E noi gli si è detto, ragazzi, hanno dato 600 euro dall'8 di marzo, quel che si campa. Purtroppo non è così semplice come sembra. No, io infatti ero convinto questa mattina di toccare un settore nevralgico, soprattutto multidisciplinare, perché adesso Dolores è la testimonial numero uno, è quella che fa il vestito, che è al centro di tutto il punctum, come direbbe Roland Barthes, di un matrimonio, è il vestito della sposa, per quello ci si va. E intorno a quello poi si dirada e si irraggia tutto il resto. Però anche per voi è un problema, figuriamoci tutta l'industria delle foto, dei filmati, farete tutto rimandato, però nel frattempo cosa fate? Riccardo da Pordenone, no, sì Sonia, sì Riccardo, buongiorno, quale categoria appartieni delle persone danneggiate? Futuro sposo. Di mariti, ecco. Futuri mariti, sì. Sì, futuri mariti, noi dovevamo sposarci con mia compagna il 4 di settembre, e siamo nel limbo, nel senso che non sappiamo ancora, noi abbiamo già prenotato una data per il prossimo anno, però in realtà non sappiamo se ci consentiranno. Che investimento avete già fatto voi? Allora, fortunatamente avevamo solo fermato insomma la villa per il ricevimento. Per il ricevimento. Che ovviamente fortunatamente hanno capito il periodo e hanno detto sì, intanto vediamo se riusciamo a farlo. Sì, perché anche perché affittava le location, c'erano location privilegiate che si facevano solo matrimoni, non è che ci andava la gente a mangiarsi la pizza. Esatto. Anche esatto, per loro sarà esatto. Un problema. Esatto. Insomma, diciamo. E poi dopo, sì, dico, e poi è tutto quanto, no? Cioè, come si diceva prima, è fare la festa con le mascherine, non avendo il calore degli amici e parenti, non è la stessa cosa. Sì, poi diciamo. L'addio al celibato, l'addio al nubilato, quello non si può fare perché ovviamente... Come fai a farti fare la lap dance per l'addio al celibato? No, vabbè, ma non è tanto quello, mandare via con gli amici. Con gli amici, E beh, mica andate a fare gli esercizi spirituali con gli amici, si va nei localini, ti pagano la ballerina, ti fa la lap dance, queste cose non le può più fare, nemmeno può fare l'addio al nubilato la tua futura sposa, perché anche lì non può andare a mettere i soldi nello slip dello spogliarellista, perché non può, dovrebbe farlo coi guanti, è una cosa complicatissima. Mi rendo conto che è un problema. Allora torniamo un attimo a Dolores Tommasi, che ricordo ha ripreso a lavorare, il suo atelier l'ha spostato nel suo salotto. Allora, ti sacrifica molto la vita questa... Ho trasformato la mia casa, cioè il mio salotto dai toni nero, grigio, rosso, bianco è diventato tutto rosa e beige, quindi ho cambiato proprio quello che era anche la mia vita a casa. Quindi ecco, come fa a seguire un'imprenditrice e una creatrice come te questo nuovo trend? Adesso tu come fai a inseguire le persone che rimandano il matrimonio di un anno? Senti, fra un anno, giugno 2021, cosa fanno adesso? Sì, allora, le mie spose le accolgo nel mio nuovo atelier, che sarà più uno studio stilistico atelier, quindi dove sarà un rapporto molto personalizzato, perché non è un negozio su strada, quindi sarà tutto su appuntamenti e quindi cerco di seguirle proprio nei loro... desideri dell'abito, quindi disegnerò apposta per loro l'abito, quindi ci sarà comunque degli abiti di prova, però sarà un discorso proprio diretto, cioè un ascoltare e disegnare in modo che realizzo. Però proprio... scusami Dolores, io voglio essere anche in questo, trovare sempre l'aspetto così. Clienti? No, questo sì, adesso me lo dici, ma in realtà è cambiato anche il tipo di servizio, adesso sarà tutto più difficile, ma avranno un abito più esclusivo, perché una cosa è andare in un atelier dove ci sono le lavoranti, stai in fila, aspetti. Tu vai a casa della stilista, te lo cuce addosso mentre prendi il caffè della sua cucina, quindi praticamente è iper personalizzato il servizio a questo punto. E poi hanno la garanzia di avere un prodotto anche italiano, perché i miei tessuti io li prendo a Como, perché ci tengo il Made in Italy. Quindi, visto che c'è stato questo grande problema nazionale, dobbiamo anche aiutare le aziende italiane. Quindi io vorrei che le spose puntassero su un abito italiano, infatti anche su social. Ma perché c'erano anche abiti cinesi da sposa, tanto per dire, la dico così, la butto. Sì, la maggior parte degli abiti che in vendita in Italia sono abiti prodotti in Cina, all'estero, sì. Anche da aziende, da multinazionali magari europee, che non faccio i nomi. Beh, quelli tengono il magazzino. Che queste spose ritornino a capire che cos'è l'artigianalità, la sartorialità, anche di avere un prodotto finito bene. E non parlo solo per me, ma anche di altre mie colleghe stiliste che hanno questi laboratori piccolini dove lavorano veramente con amore. Perché avendo anche un sito, hai anche modo di far conoscere, siete piccoline e artigianali, però avete anche possibilità di farvi conoscere, quindi hai modo anche di far vedere quello che stai facendo. Sentiamo qualche altra telefonata. Alessandro da Treviso. Alessandro. Buongiorno, io posseggo un castello che do in affitto per matrimoni da tantissimo, da 30 anni. Ma cos'è? Sei di nobile schiatta, come mai c'è un castello? Sì. È un castello di famiglia. Di famiglia, perché sennò poi dopo quello che vengo a dire magari può essere spiacevole, non vorrei forse. Vabbè, che vuol dire? Vabbè, sei un nobile, logicamente decaduto. Per quello, perché tu non sai ancora cosa sto per dire. Che chi ha patito, chi patirà questo è quello che mi spiace chiamare la bassa manovalanza, cioè il cameriere, quello che lavorava per la signora Dolores. Certo. Chi è il capo del catering, il signor Alessandro del Castello, aspetterà un anno e negli anni ha fatto tantissimi quattrini, perché non voglio adesso Dolores mi insulterà, un abito da sposa costa 3.000 euro, ma non vale 3.000 euro, il DJ prende 1.000 euro, ma se io lo invito il giorno dopo mi prende 150 euro quel giorno lì, il fotografo se io lo invito a fare le foto al mio castello mi prende 100 euro, il giorno degli sposi ne prende 1.500, ecco, quindi non è che moriranno di fame. Invece chi ha lavorato per loro sono loro che vengono schiacciati, perché loro lavoravano per poco e non verranno più chiamati, sono come se fossero dei piccoli terzisti, lavoravano no, con me interessante e ammirevole che tu lo dica invece di accodarti a quelli che si piangono sempre addosso pur non avendo in fondo le ragioni parametrate ai bisogni altrui, tu dici bene o male io il castello ce l'ho, me ne sto fermo un anno, male che vada mi cucino l'uovo al tegamino nel salone di fronte al caminetto, tiro avanti, ma il problema sarà il cameriere veniva tutti i giorni, le persone che di questo facevano la fonte primaria di sussistenza. Ci fermiamo ancora un istante, interessante questo discorso. Melog 800240024, stanno chiamando tantissime persone dimostrando che in realtà l'indotto rispetto alla cerimonia matrimoniale, evento su cui ho sempre sorriso, sempre considerato una reliquia d'arcaismo, sempre riso, preso in giro, scherzato, sbeffeggiato, fatto trasmissioni sul piatto che si dà alla sposa in Umbria il giorno del matrimonio, e non so se anche l'industria del piatto alla sposa sarà in crisi, immagino, ma è artigianato povero, quindi non credo che sia quello. Beh, oggi devo dire, mi rendo conto che comunque il piacere di mantenere vivo un sogno, e le persone hanno pieno diritto di avere sogni, una ragazza ha diritto di sognare l'abito bianco, le vallette, i confetti, il giorno più bello della vita, poi magari può anche ricredersi una settimana dopo, però se questo è il sogno di una bambina, perché bisogna negarglielo? La negazione di questo sogno, che ahimè è una dolorosa necessità, costa tantissimo anche dal punto di vista dell'indotto. È grandissimo il numero delle persone che sono state colpite proprio da il sogno che si interrompe. Enzo, provincia da Firenze, quale categoria rappresenti? Sì, buongiorno, io dei musicisti. Quelli che fanno la serenata e poi suonano durante la cerimonia e la sera si balla. Sì, praticamente sì, ha colpito un indotto pazzesco a livello musicale, perché molti musicisti, diciamo, come me, che sono di medio, cioè magari appunto le rockstar è un conto, oppure grandi turniste, ma ci sono anche musicisti. Tu vivevi sui matrimoni, che problema c'è? Che allora, non c'è nessun problema. Il problema è arrivato perché appunto con questa cosa, diciamo, a me, diciamo personalmente, ne è saltati una ventina, che è un lavoro grosso, è tanto lavoro, e questo è molto problematico, ecco. E come me c'è una situazione, diciamo, molto, molto larga, molti miei colleghi hanno questo, diciamo, problema. Diciamo, in che percentuale il business dei matrimoni copriva il tuo fatturato annuale? Molto, molto, molto. E quello estivo tutto, praticamente, quasi tutto, a parte qualche serata di sagre o feste, però diciamo che il matrimonio per il musicista, e questo me lo posso ancora fare, per il medio musicista, diciamo, è la parte dove diciamo è più retribuita, diciamo, è la ciccia dell'anno, ecco, il resto, sì, il resto si fa musicalmente, sì. E purtroppo la cosa, appunto, la cosa triste è che tanti musicisti bravi, preparati, insomma, ora si trovano veramente con le pezze. Guarda, è tanto vero quello che dici, tu chiami da Firenze, sentiamo Danilo, provincia di Lodi, dall'altra parte d'Italia, com'è la situazione, Danilo? Buongiorno Nicoletti, sì. È uguale, praticamente io sono capo di una band che, a parte matrimoni, si suonava anche tanto nelle piazze estive d'estate, nei locali d'inverno, nelle Baleare, anche a Milano, non so se sei di Milano, la Baleare dell'Ortica ad esempio, no? Sì, però volevo capire, questa mattina mi interessa sapere la fetta del vostro lavoro dedicata al matrimonio, ai matrimoni, alle cerimonie matrimoniali. Noi è importante. È molto importante, ma tutto proprio lo spettacolo in generale, anche quella dei matrimoni. Siamo praticamente fermi. Notare, Nicoletti, che siamo professionisti, cioè noi facciamo solo questo lavoro, non è che viviamo, certo, d'altro. Che... Quindi capisci che diventa un problema. Calcola che io ho 6 persone sotto me che io devo pagare comunque sempre. È un problema, perché anche questi fanno solo i musicisti, e da sempre, io ho 52 anni, ho cominciato a fare il musicista che ne avevo 16 e ho sempre fatto questo lavoro, e siamo diventati invisibili. Danilo, ok. Daniele da Firenze, altro problema, altra categoria, cosa facevi, cosa sì, fai buongiorno. Te, diciamo? Buongiorno, mi occupo di video da tanti anni, il 70% del mio fatturato è legato al mondo dei matrimoni. Mi spiego come era il format, tu facevi anche, ricostruivi il fidanzamento, come si sono conosciuti, la preparazione, no, tutto? No, a livello proprio mio, di politica mia aziendale, mi piace proprio fare reportage, quindi seguo la giornata. Vabbè, quindi dei matrimoni non te ne importa niente, se i matrimoni non ci sono, il tuo lavoro lo fai lo stesso. No, assolutamente, sono completamente fermo io. Io fino al 2021 sarò fermo. Tutte le date che avevo me le hanno spostate tutte, se non annullate. E come me anche tutti i colleghi. Insomma, ci sentiamo spesso anche con i colleghi della zona e la situazione è sempre la stessa. Quindi noi ci siamo lamentati che in Italia non ci si sposa più, la famiglia tradizionale sta andando in molla, però c'è una fetta importante, diciamo, della nostra economia, viveva sull'indotto di quei pochi o tanti, dipende in percentuale, quindi 196.000 matrimoni all'anno davano lavoro a tutte queste persone. Giuseppe da Bari, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io volevo intervenire per contraddire ciò che ha detto il nobile che è intervenuto prima, il Castellano, no. Vedo che evidentemente mi non ha mai costruito nulla, ma solo ereditato. Noi come famiglia abbiamo deciso un bel giorno di investire in una sala ricevimenti, abbiamo acquistato una vecchia masseria qui in Puglia, l'abbiamo ristrutturata, giocandoci il tutto per tutto praticamente, e naturalmente l'investimento non è che tu lo riesci ad ammortizzare in un anno, no? Tutto dura 10, 15, 20 anni. Ma a parte ho capito la differenza, lei mi dice Giuseppe, il nobile l'ha ereditato dai suoi avi, il castello ce l'ha comunque e comunque ce l'avrebbe avuto. Noi abbiamo fatto un investimento per fare la sala ricevimenti, il salone, adesso non so, la location da matrimoni. E adesso cosa ci facciamo? Mica ci possiamo giocare a pallone dentro. Non c'è da pagare, la manutenzione da fare. Quindi se io non faccio neanche un matrimonio quest'anno, come farò a pagare il mutuo, la manutenzione, le utenze? Per non parlare poi delle persone che lavoravano per me, che stanno con il caso di cazzo. Ecco, ma diciamo, la sua previsione qual è? Riuscirà a fare qualche matrimonio o, come ci ha detto Dolores Tommasi, come ci hanno detto tutti, quest'anno la gente non si sposa perché con la mascherina, col prete mascherato, io, senza sicuramente riso. Sicuramente io, magari qua abbiamo anche un altro aspetto che non c'entra in generale. È che noi siamo stati fortemente penalizzati in Puglia, pur avendo visto il Covid forse con il tranocchiale, perché se ti presenti a Bari ho capito questo, però, non mettiamo insieme altri problemi. Questo ne abbiamo già parlato ieri, della differente valutazione con l'ottica regionale e l'ottica nazionale. Sta di fatto che oggi, grazie a Dolores Tommasi, che continuerà a cucire i suoi capolavori da sposa nel suo salotto, quindi chi vuole sapete che è a disposizione, e tra tutte le persone che hanno chiamato abbiamo individuato un altro piccolo grande problema fra i tanti che ogni giorno portiamo all'attenzione del nostro pubblico. Alla prossima.